state fuori, fatemi vedere. Vuol dirci qualcosa? L'importante di oggi? Com'è la giornata oggi per lei? È bella o brutta? Si nuvola, vedi? È nuvolosa. Sono senza telefonini perché non ho corpo, ma lo vedo a occhio, sai? Fatelo che arriva. Attenzione, no? Attenzione. Grazie. Buona grazie giornata. Mille. Arrivederci. Voi. Arrivederci. Vedete la gioventù come la vedete, ragazzi? Una vecchiaia arriva da sola. Grazie.